Allora, lei è la candidata più votata a Bologna. Come ci si sente ad aver raccolto questo consenso? Ci si sente bene perché è un lavoro collettivo, è l'affermazione del gruppo che mi onoro di rappresentare, Coalizione Civica Coraggiosa, Ecologista e Solidale, e siamo la lista che ha preso in assoluto più preferenze espresse e credo la lista di sinistra che è andata meglio in tutta Italia, e questa è chiaramente l'affermazione di un radicamento collettivo sul territorio. Lo si vede bene nei quartieri. Abbiamo eletto 12 consiglieri su 12 candidati. Ecco, lei pure ha detto che ci sarà una vice sindaco donna, potrebbe essere lei. Di questo non abbiamo ancora parlato, ci siamo fatti solo le congratulazioni reciprocamente ieri sera, ma come è solito in coalizione parliamo delle cose in maniera orizzontale, credo si sia visto, e quindi non abbiamo ancora discusso. Cosa chiederete però a lei pure, che cosa chiedete che faccia subito? Beh, intanto siamo certi di dare attuazione al nostro programma, a cui abbiamo contribuito con le 7 idee primarie. Si è dimostrato che quando si guarda a sinistra si vince il primo turno e si vince bene, e questo è quello che ci aspettiamo succeda nel prossimo mandato. Il risultato dei 5 Stelle fa emergere come questa coalizione a Bologna sia più spostata verso sinistra. Decisamente, avevamo detto che era un laboratorio, forse più simile al Conte Bis che al governo Draghi, e così è stato. Il vostro risultato vi soddisfa? C'era chi pensava addirittura che potevate arrivare anche al 10%. Noi ci eravamo dati l'obiettivo di essere la seconda forza della coalizione, ci siamo riusciti. Questo è importante perché comunque con l'affluenza calata è una partita non in bilico come altre tornate elettorali, penso per esempio alle regionali, credo sia stato comunque un ottimo risultato, quindi siamo soddisfatti perché addirittura comunque in percentuale siamo leggermente cresciuti, e questo per un gruppo, una lista civica municipalista è molto forte. Molto spesso le liste civiche si disgregano nell'arco di qualche anno. Fratelli d'Italia è il secondo partito a Bologna, insomma non è un aspetto da poco. Questo spaventa, c'è una destra sovranista, razzista e xenofoba molto forte anche nella nostra città, è un dato che non va sottovalutato. È bella la risposta di sinistra che è riuscita a dare ancora una volta a Bologna. Ha sentito Elie Schlein? Collaborerete adesso tra comune e regione, visto che avete avuto questo risultato abbastanza in linea rispetto alle regionali, no? Cioè... Certo, Elie Schlein era con noi ieri sera, abbiamo festeggiato insieme, fa parte della nostra comunità, sono certa potremo creare una buona sinergia con il gruppo di Coraggiosa in regione. Farete pesare quindi il vostro risultato anche in giunta in termini di assessori? Sì, come ti dicevo non abbiamo ancora parlato di questo tema, sono certa che ci sarà riconosciuto l'essere la seconda forza della coalizione.